snowflake girl. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. In apertura, ciao a tutte, vi vogliamo parlare di una cosa che abbiamo fatto, vale a dire un manifesto sull'astensionismo per le prossime elezioni. Diciamo che abbiamo fatto questo manifesto che dice non votare, non delegare, auto-organizzati, perché ci sembrava molto importante comunicare questa nostra posizione, che è una posizione da femministe e non è assolutamente una posizione ideologica, ma è una posizione maturata sul campo e nelle lotte che abbiamo portato avanti fino a questo momento. Diciamo che proprio lottando nel nostro ambito, chiaramente, però è una, poi ci sono le deduzioni, si fanno e si generalizzano e riguardano un po' tutto il sociale, ci siamo rese conto che tutti i partiti partitini sono in effetti allineati nelle scelte di fondo rispetto a quelli che sono i valori della società neoliberista. Quali sono questi valori che tutti cavalcano e che ci hanno di fatto portate a fare questo tipo di considerazioni? Allora, la società neoliberista è incardinata su due o tre concetti base: meritocrazia, ripristino dei ruoli, ripristino della gerarchia, rispetto dell'autorità. Questi concetti in effetti sono stati applicati in tutti gli ambiti, no? Prima di tutto nei luoghi di lavoro, ripristino della meritocrazia ha portato all'individualismo sfrenato, tutto questo si è trasferito nel sociale, precarizzazione di massa. E ci siamo resi conto che le leggi che hanno informato, per esempio, la precarizzazione di massa e tutto quello che è successo nel mondo del lavoro, sono state create, votate, incentivate, portate avanti, iniziate addirittura dal centro-sinistra, portate avanti dal centro-destra, ribadite continuamente, e nessuno che si prenda la briga di in effetti affrontare alla radice questo problema. Poi abbiamo lottato contro i CIE. Allora, ma i CIE chi li ha fatti? La legge turco-napolitano che ha creato la detenzione per condizione, la detenzione amministrativa, un concetto gravissimo, spostamento dallo stato di diritto allo stato etico. Ci sono le lotte contro il TAV. E chi è che si batte per il TAV? È una posizione assolutamente trasversale. Nessuno ha preso posizione contro, a favore, cioè contro, tutti sono a favore, tutti pensano che le grandi e le piccole opere siano una necessità per il progresso, questo concetto di progresso che poi noi parliamo della sinistra, attraverso la sinistra, quella cosiddetta sinistra, e nessuno si sofferma a pensare e a riflettere su cosa significhi progresso, se è vero che stiamo andando avanti, rispetto a che cosa e rispetto a quali tipi di problematiche. Vogliamo parlare delle guerre neocoloniali? Vogliamo parlare di chi è a favore o di chi non è a favore delle guerre neocoloniali? Sono tutti convinti e sono tutti assertori della necessità dell'intervento. Vogliamo parlare di lavoro? Vogliamo parlare della strumentalizzazione delle donne, della delle diversità, di quanti diritti e la violenza anche sulle donne sia stata strumentalizzata per politiche securitarie? Vogliamo parlare di chi sono stati i primi sindaci sceriffi che hanno normato la nostra vita? Allora, queste sono soltanto alcune delle considerazioni che abbiamo fatto, e perché che ci portano assolutamente a non votare e a non delegare, ma auto-organizzarci, perché siamo convinte che il femminismo è prima di tutto lotta, auto-organizzazione e percorso di liberazione. Adesso passiamo alle notizie della giornata. Trattamento sanitario obbligatorio per le neomamme. Non è un titolo di una nuova soap opera, ma è l'ennesimo tentativo di imbottire di psicofarmaci chi sta per avere o ha appena avuto un bambino, che a sua volta riceverà la sua dose tramite l'allattamento. Due piccioni con una fava. Un'eventualità che potrebbe riguardarti se una nuova proposta pro farmaci venisse approvata. Questo è business, creato ad hoc tramite i media. Basta mettere nelle news tre o quattro casi di madri che gettano il loro figlio dalla finestra, mettere in moto una delle tante associazioni di categoria lobby, quella dei ginecologi per esempio, che fa pressione sui politici presentando statistiche false, arrotondate con qualche zero in eccesso, ragioni costruite, sempre ad hoc, per cui è necessario riempire di farmaci le mamme. La cosa segue gli iter burocratici, magari con procedura d'urgenza, e alla fine il Ministero della Salute approva. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. sunrise, sunrise couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Dato che abbiamo introdotto questo fatto gravissimo del trattamento sanitario obbligatorio proposto per le mamme per la depressione postpartum, è il caso di dire un attimo che cos'è il trattamento sanitario obbligatorio, chiamato comunemente TSO. Allora, il TSO è un provvedimento emanato dal sindaco che dispone che una persona sia sottoposta a cure psichiatriche contro la sua volontà, normalmente attraverso ricovero presso i reparti di psichiatria degli ospedali generali, servizi psichiatrici di diagnosi e cura. In alcune zone del nostro paese è uso consolidato attuare il TSO, oltre che nei reparti psichiatrici anche presso il domicilio della persona, ma in linea generale, nella stragrande maggioranza dei casi, il provvedimento DSO si risolve nell'accompagnamento coatto, e ribadisco coatto, tramite i vigili urbani presso i reparti psichiatrici. Allora, diciamo che devono succedere delle condizioni, dice la legge, che le certificazioni, che le condizioni per il TSO devono essere certificate contemporaneamente da due medici, da un primo medico e convalidate da un secondo medico che deve appartenere alla struttura pubblica. E la legge non prevede che i due medici debbano essere psichiatri. Le certificazioni, oltre a contenere l'attestazione delle condizioni che giustificano la proposta di SO, devono essere motivate nella situazione concreta. In altre parole, non dovrebbero essere ammesse certificazioni che si limitano alla mera enunciazione delle condizioni, né tantomeno prestampati. Invece succede che cosa? Che il trattamento sanitario obbligatorio poi viene messo in atto, e ricordiamoci sempre che è un trattamento coatto, viene messo in atto dopo l'indicazione di qualcuno che ritiene che qualcun altro o qualcun'altra sia fuori dalla norma, sia in una situazione di anormalità o, secondo lui, di pericolosità sociale per qualche motivo, e si mette in moto il meccanismo di psichiatrizzazione e di attenzione nei confronti di questa persona. E succede anche un'altra cosa, che questa persona neanche viene informata di quello che sta succedendo nei suoi confronti. Spessissimo non viene informata ed è una situazione, non dico prevaricante della libertà personale, ma assolutamente lesiva della libertà personale, perché pur se la legge non dispone esplicitamente l'obbligo di tale notifica, di fatto la notifica dovrebbe essere fatta dalla persona che è sottoposta a questo tipo di attenzione. E invece questo spessissimo non succede. Il problema è che poi le persone vengono, come è successo recentemente in diversi casi, che poi sono finiti addirittura molto male, e viene presa con la forza, circondata a sua insaputa, presa con la forza, trascinata in ospedale psichiatrico. Allora, il fatto che questo tipo di trattamento adesso sia, si voglia proporlo per la depressione postpartum è una cosa devastante, ma il TSO è devastante in sé. Comunque, torniamo al TSO postpartum. You'd be mine. You'd be mine. You'd be mine. Proseguendo con la notizia, sempre sul trattamento sanitario obbligatorio per le neomamme. Cito, il network farmaceutico ora cerca di dare inizio a un nuovo settore di mercato, quello delle mamme, imbottendole di psicofarmaci che hanno nella lista degli effetti collaterali la possibile insorgenza di pensieri, omicidi e suicidi. Così anche chi non vorrebbe mai di suo tali pensieri, dopo la somministrazione di psicofarmaci avrà un bel da fare a cercare di fermarli. E c'è anche da dire che la causa del problema di una madre che cerca di sopprimere... To understand, oh yeah, I know. Ooh. But e quindi, insomma, il problema è anche che la causa di una madre che appunto tenta forse di uccidere il bambino, di sopprimerlo, comunque ha degli sfoghi comunque depressivi, non è certo da ricercarsi nel fatto che abbia partorito, ma forse nel fatto che già in quanto persona avesse già dei problemi a prescindere dal parto. E diciamo che succede anche un'altra cosa, succede che l'uso degli antidepressivi è molto pericoloso, tant'è vero che adesso negli Stati Uniti in cui c'è l'abitudine di dare il Ritalin ai bambini che sono, secondo loro, iperattivi, si è scoperto, bontà loro, che c'è un'altissima percentuale di suicidi negli adolescenti che hanno fatto uso di Ritalin. Mi stava dicendo che non è un antidepressivo in maniera specifica, è un calmante, come può essere? Beh, va bene, comunque è sempre uno psicofarmaco, diciamo così, ecco. E infatti c'è un'alta percentuale di suicidi negli adolescenti. Perché? Perché si è trovata una correlazione molto forte tra l'uso degli psicofarmaci e degli antidepressivi e in effetti poi tentativi di suicidio o comunque reazioni violente. Ma il problema rispetto anche a quello che è questa notizia è ovviamente la strumentalizzazione ulteriore sempre sul corpo delle donne e comunque sul fatto che c'è qualcun altro di esterno che debba decidere quale sia la nostra normalità o quale non sia o quale sia, come sia essere una buona madre, e come se in realtà si potesse stabilire con un regolamento o insomma dei punti precisi cosa sia quali siano i doveri, i diritti di una mamma, e lo Stato ci protegge, ci aiuta tramite tutti questi specialisti che ci danno tante belle medicine, tanti belli ormoni per curarci. L'altro punto importante è pure che la maternità, cioè, viene comunque eletta a cosa che non è bella per una donna, perché magari non la desidera, eccetera. No, diventa una costrizione a cui ogni donna da cui ogni donna deve passare. Cioè, tutte noi abbiamo un utero e questo utero va usato. Che poi, cioè, in realtà basta aprire la Bibbia e troviamo citato questo. Però voglio dire, se noi stiamo in un paese laico, non capisco per quale motivo il mio utero deve semplicemente servire a fare figli, o in realtà io possa decidere di cosa fare del mio utero e basta, senza dovermi sentire frustrata, sia se decido di non averli e se decido di averli e decido di avere una maternità differente da quella che viene proposta dalle pubblicità. Sinceramente voglio potermi vivere la mia maternità liberamente. E infatti è proprio su questo che giocano, perché la maternità è una costruzione, cioè come viene intesa adesso la maternità è una costruzione sociale, ed è una costruzione talmente inculcata nelle donne fin da piccole, che se una donna arriva in età, chiamiamola fertile a un certo punto della sua vita, e non ha figli, automaticamente la società comincia a chiedersi perché, e cominciano a interessarsi sul perché non li abbia. Oppure lei stessa, senza bisogno di giudizi espliciti, comincia a sentire e a domandarsi se è il caso o non è il caso di fare figli. È chiaro che è una costruzione indotta e non c'è niente di naturale. Se questo fosse naturale, ognuna sarebbe padrona di farli o non farli, quando vuole, come vuole. E invece c'è questo giudizio diffuso, implicito, esplicito, più o meno fatto di sottintesi, più o meno fatto di domande, più o meno che poi porta la donna a vivere la maternità in maniera molto ambivalente. Perché, per esempio, quelle che non desiderano affatto figli, tutto sommato spessissimo si sentono in colpa, per cui sono sempre in conflitto tra questa presa di posizione, questa presa di coscienza rispetto a una serie di cose, e invece il diciamo questo sentire comune che le porterebbe a desiderare per forza la maternità. Way over yonder is a place that I know, where I can find shelter from a hunger and cold. And the sweet taste in good life is so easily found way over yonder. That's where I'm bound. Un'ultimissima nota, per cui si può anche capire che una donna che ha avuto un figlio possa avere una depressione postpartum, perché vive questa maternità in maniera ambivalente. Oppure la dobbiamo imbottire dei farmaci con un TSO obbligatorio? Shining right down on me, then trouble's gonna lose me. Worry, leave me behind, and I'll stand up proudly. in true peace of mind. Talking about a talking about a way over yonder is a place I have seen in a garden of wisdom from some long ago. Allora, inoltrato dalle compagne di Bologna, vi volevamo dare un appuntamento. Venerdì 15 febbraio alle 18 a Bologna, Piazza San Francesco, ci sarà un presidio Difendiamoci dai difensori. Fondamentalmente venerdì 17 gennaio, dopo una serata passata al Pratello, tre compagne sono state fermate da presunti digossini che non si volevano identificare. Erano le 3 di notte, dopo qualche spintone e allontanamento di un loro amico dal gruppo, sono accorse tre volanti della polizia, sono state accerchiate, sono state insultate, maltrattate e portate in questura. Non si sono, ovviamente lì in questura non si sono risparmiati da insulti sessisti e volgari, tra provocazioni, umiliazioni e quindi insomma le compagne purtroppo sono state rilasciate dopo 3 ore alle 6 del mattino con una sfilza di pesanti denunce: resistenza, oltraggio, rifiuto di dare la propria generalità e minaccia pubblico ufficiale. Oltre al fatto che i Digos se la sentano calda, scusate l'espressione romanaccia, però di poter girare senza documenti, non identificandosi e richiedendo invece a chi circola per la propria città di doversi identificare, e già questa è una cosa assurda. Ovviamente poi viene la violenza sessista dal fatto che comunque sono state portate tre compagne e trattate ovviamente con determinati termini e con determinati atteggiamenti orribili e senza giustificazioni. Quindi volevo leggere l'ultima parte del comunicato in cui le compagne richiedono appunto di partecipare non tanto quanto una manifestazione o comunque un presidio che fosse vittimistico, in cui appunto rappresentiamo il fatto che abbiamo subito una violenza, quanto il fatto di reagire a questa violenza. Donne, basta sopportare silenti, usiamo le armi di cui disponiamo in nostra difesa, ma anche in attacco, la solidarietà per cominciare, reagiamo insieme compatte e determinate a questo ennesimo inaccettabile sopruso. Anche un graffio, una di noi da parte dei testosteroni in divisa è uno di troppo. Smettiamo di digerire nei nostri cessi le mille violenze che ci vengono sferrate, vomitiamole fuori e inondiamo la strada. Quindi venerdì 15 febbraio, ore 18, Piazza San Francesco, Bologna.

Buonasera, adesso passiamo all'approfondimento. Oggi avevamo pensato di cominciare a introdurre alcune parti dell'incontro della memoria collettiva, memoria femminista, che si è svolto a Roma nello spazio sociale Ex 51 il 15 dicembre dell'anno scorso. E oggi inizio con il mio intervento, che in realtà come titolo aveva memoria... oddio, era sulla memoria femminista e il titolo era appunto mi ricordo che ai miei tempi la memoria femminista da tramandare e quindi vi voglio leggere delle parti, insomma unire anche altri interventi di altre compagne che hanno partecipato a questo incontro. E la memoria femminista, secondo me, nel mio intervento facevo questo parallelo sul fatto che la trasmissione alle generazioni nate negli anni Ottanta, cioè la mia generazione, non avevano un senso di appartenenza al femminismo. Questa non è, secondo me, una responsabilità delle compagne, ma in generale di un periodo storico molto buio, in cui in realtà il potere in tutte le sue forme ha tentato di omettere e pacificare tutte le forme di attivazione, ovviamente anche quella femminista soprattutto, perché insomma, come abbiamo spesso ripetuto, noi donne veniamo vessate su vari fronti e ci hanno reso appunto l'attivazione femminista come una mera espressione di donne isteriche e pelose. Poi insomma, cioè io studio storia e mi rendo conto che molto spesso c'è tanta anche non conoscenza rispetto a che cos'è cos'è la storia di genere e cos'è la storia delle donne. La storia di genere in realtà riguarda molto più un aspetto, se si può definire così, politico, quindi comunque un'analisi di quella che sono i generi, quindi appunto non è schiacciata esclusivamente sulla questione femminile, femminista, trans, insomma cioè, queer, può appunto analizzare vari aspetti del genere. La storia delle donne invece è, diciamo, più accademica e riguarda appunto una narrazione, un'analisi storica, sociale, economica, politica di come le donne avrebbero attraversato nei secoli la storia. Ovviamente questo non c'è, noi viviamo una storia che è tutta narrata al maschile. Solo negli anni 20 con gli Annales, che praticamente si riferisce a un gruppo di storici che cominciano a inserire all'interno degli studi la storia sociale, la storia economica, quindi dando un taglio alla storia che non fosse più quella solo del librone, dell'archivio, dei re, delle regine, degli imperatori e degli imperatrici, ma che narrasse proprio a livello storiografico come l'uomo, la donna, eccetera, potessero vivere in quel contesto, in quel periodo. Ovviamente anche nonostante insomma lo sforzo degli Annales, la storia non cambia e la storia non parla di noi donne. Adesso nell'ultimo periodo si sta un po' riprendendo questa storia delle donne, e quindi mi sono ritrovata all'università a frequentare qualche corso, ma soprattutto negli ultimi 2-3 anni del mio percorso universitario ho avuto modo di incontrare questi corsi. Però mi sono resa conto che ancora siamo molto legate ovviamente a una rappresentazione del genere legata ai ruoli, in una condizione in cui le donne vengono messe in un ragionamento storico come non partecipi, non protagoniste, ma in realtà scenografia in cui inserire altri elementi, insomma, siamo appunto c'è una grande donna dietro ogni uomo, insomma, si dice sempre, soprattutto in storia contemporanea, le grandi donne o sono first lady o al massimo possiamo ambire a una Maria Teresa di Calcutta, se ci dice bene, e quindi, insomma, diciamo che siamo questo. Questo non perché non ci siano storiche o non ci siano state compagne come la Collontai, scusate, non si dice là, o Simone de Beauvoir, insomma ci sono state tante compagne, tante che hanno narrato la storia delle donne, la storia di genere, e quindi Io credo che sia importante che noi ci riappropriamo della nostra storia con la S maiuscola. Allora, appunto, dicevo proprio che la storia con la S maiuscola deve essere ripresa da noi donne, e, anche perché molto spesso l'unico argomento pseudo femminile di cui si parla sui libri di storia è l'emancipazionismo, che ora va bene, va preso in considerazione, va analizzato, è un elemento importante dal punto di vista storiografico per l'analisi delle storie delle donne, ma ci schiaccia ovviamente ogni volta sulle quote rosa, sulla parità, e non ci basta. Nella storia ci hanno toccato tutte, e sinceramente io penso che noi dobbiamo rispondere con ogni mezzo, che siano pietre o studi di genere. E con questo mi volevo ricollegare invece all'intervento di Elena De Marchis, che tiene il blog Scateniamo Tempeste, e volevo leggervi uno stralcio appunto del suo intervento all'incontro sulla memoria collettiva, memoria femminista. Avevo delle obiezioni di altro tipo, ad esempio mi infastidiva il fatto che venisse creata una storia delle donne come disciplina, mentre la grande storia restava una cosa da maschi, con battaglie di maschi, eroi maschi, maschio pensiero politico, economia dei maschi, banchieri, artigiani, imprenditori. Avvertivo questa disciplina come una sorta di riserva per gli indiani d'America, un contentino delle pari opportunità, per dire che non vi era sessismo nelle università e che le questioni femminili erano trattate al pari di tutti gli altri argomenti di studio. Si rendeva visibile per ghettizzare. In realtà la storia di genere veniva da molto lontano, e i pochi docenti, le poche docenti che se ne erano occupati con grande serietà avevano abborrito l'idea di una cattedra di storia delle donne, continuando dove possibile a gestire il loro lavoro e a parlare di rapporti di genere nei vari periodi in corsi di storia economica, di storia sociale, di storia politica, eccetera, come era sempre avvenuto dagli anni 60 in poi. Allora, vi vogliamo ricordare l'appuntamento di domani, la nostra festa di San Valentino, che si intitola L'amore romantico uccide. Domani 14 febbraio, nello spazio separato del 22 di Via dei Volsci, alle ore 17.30, vi aspettiamo tutte per discutere insieme, per decostruire, decodificare e destrutturare il paradigma dell'amore romantico. E parte fondamentale della strutturazione socio-economica di assoggettamento delle donne come idealizzazione della felicità dipendente da qualcun altro, come inadeguatezza e mancanza senza la metà che ci dovrebbe completare per destino, che porta le donne, educate fin dall'infanzia nell'attesa del principe azzurro, nelle sue più svariate accezioni modernizzate, a considerare la conquista dell'amore come realizzazione imprescindibile, a tollerare la violenza nel rapporto, a considerare la sofferenza come prezzo da pagare pur di mantenere l'affetto dell'altro, a non considerarsi mai persona compiuta in sé. L'amore romantico è uno dei fattori più insidiosi a sostegno della violenza sulle donne ed è una strutturazione così forte che il sistema è riuscito a far entrare così profondamente nella nostra costruzione personale da investire anche i rapporti non eteronormati. E allora vi aspettiamo insieme a te, pasticcini, torte, musica e vino rosso, perché la consapevolezza di noi tutte diventi comprensione dei meccanismi con cui agisce questa società patriarcale e neoliberista e diventi rifiuto della passività, della vittimizzazione, della delega e diventi capacità di reazione, assunzione della risposta e consapevolezza della nostra forza. Sat in the airport bar, he was wearing his father's tie. And his eyes looked into my eyes so far whenever the words ran dry. Behind the lash and the circles blue, he looked as only a priest can through. And his eyes said me, and his eyes said you, and my eyes said let us try. He said you wouldn't like it here, no, it's no place you should share. The roof is ripped with hurricanes and the room is always bare. I need the wind and I seek the cold. He reached past the wine for my hand to hold. And he saw me young and he saw me old. Vi ricordiamo che il 14 febbraio, cioè domani, L'amore romantico uccide è uno degli appuntamenti della coordinamenta verso l'8 marzo. Il primo è stato la festa in maschera per decostruire e destrutturare i ruoli. E il secondo, il 14 febbraio, è per la decostruzione del paradigma dell'amore romantico. E dopo il 14 vi faremo sapere gli altri. Should I choose them all? Should I make them mine? The sermons, the hymns, and the valentines. And he asked for truth. Vi volevamo ricordare un importante appuntamento il 15 febbraio alle 18 nella facoltà di fisica alla Sapienza. Ci sarà un incontro per ricordare Dax in preparazione della 3 giorni che si svolgerà a Milano il 15, 16 e 17 marzo, quindi insomma è importante partecipare. Perché la coordinamenta è antifascista, antisessista, antirazzista. Say, let them lose, cry and let them win. Oh, make them both confess. E quindi ricordiamo a tutti che questa era I nomi delle cose, la trasmissione a cura della coordinamenta femminista e lesbica. Siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e ricordiamo i nostri indirizzi. Indirizzo di posta elettronica è coordinamenta con due O, @autistiche.org, mentre invece l'indirizzo del nostro blog è coordinamenta, sempre con due O, 2o.noblogs.org. Ciao a tutte e tutti. Would just peel out the white wear. She knows what's going on. Seems we got a cheaper feel now. All the sweet tears are gone. Gone to the other side with my encyclopedia. Must have paid her a nice price. She's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. Solution.